Comunicazione e informazione sono un po' le parole chiave che hanno accompagnato l'impegno che abbiamo sostenuto con la campagna CRIS, Communication Rights in the Information Society, una campagna internazionale che è iniziata 3 anni fa in occasione e in previsione di un summit delle Nazioni Unite sulla società dell'informazione che si è svolto a Ginevra lo scorso dicembre, ma che ha avuto fra i suoi sviluppi molto interessanti il fatto che siano nati dalla campagna una serie di capitoli nazionali, quindi di esperienze nazionali. Ed è dentro una di queste esperienze, cioè un capitolo italiano della campagna, che si è iniziato a parlare dentro al Forum Sociale Europeo di comunicazione e di informazione in termini di diritti. E questo è successo a Firenze ancora un paio d'anni fa. Ora credo che nei 2 anni che ci separano da Firenze, questo nuovo incontro di Londra sta dimostrando un po' la strada che si è fatta e anche sottolineando però che alcune delle sfide presenti sono notevoli. Al tempo di Firenze ci si è concentrati molto sulle dinamiche, sulle tematiche dell'informazione, sul sistema dell'informazione, su problematiche quali la concentrazione della proprietà, le relazioni, i legami ovviamente tra comunicazione, sistemi economici e interessi politici. Però in realtà già al tempo di Firenze avevamo tentato di allargare questa visione, di non parlare solo di informazione e di riferimento all'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ma di parlare invece di un contesto più ampio, di una serie di diritti legati alla comunicazione e all'informazione, fra i quali possiamo ricordare i diritti alla diversità, alla pluralità culturale, alla pluralità dell'informazione, l'accesso alla conoscenza, una serie di questioni che sono oggi in discussione e oggetto di dibattito anche a livello europeo. E credo che la strada che si è fatta sia stata molto in questa direzione, cioè tentare di definire anche dal punto di vista concettuale come possiamo pensare i diritti di comunicazione, però anche come possiamo costruire dei framework, quindi degli schemi di riferimento, non solamente per individuare questi diritti, ma per valutare le politiche, le strategie che su temi quali i diritti di proprietà intellettuale, la concentrazione dei monopoli dei sistemi di informazione, l'accesso alla conoscenza, i temi stessi della campagna CRIS, come poter valutare queste politiche sia a livello nazionale sia a livello regionale, quindi in questo caso europeo. E credo che un segnale abbastanza significativo sia arrivato anche da questo forum che si è svolto qui a Londra, proprio per il fatto che si inizia ad individuare una linea di azione, una possibilità di collaborazione fra diversi gruppi molto dispersi a livello europeo, proprio di azione nei confronti delle istituzioni europee, quindi legare la dimensione nazionale con una dimensione regionale e soprattutto fare tesoro e patrimonio di tutte le esperienze che noi sappiamo esistere in contesti nazionali, ma che fino ad ora sono state particolarmente frammentate.